Quel pomeriggio d'agosto l'umidità e il caldo a New York erano veramente insopportabili. Un tipico giorno in cui il disagio fisico che si sente influisce anche sull'umore, rendendo le persone a volte nervose, ostili, intrattabili. Salendo sull'autobus per tornare in albergo, Daniel fu quindi molto sorpreso dall'atteggiamento dell'autista. Un uomo nero di mezza età che accoglieva con un sonoro «Ciao, come va?» qualunque passeggero che salisse sull'autobus. Inizia così il libro Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, un meraviglioso bestseller che non può proprio perdersi nessuno che vuole approfondire l'incredibile importanza che le emozioni hanno nella nostra vita. Il link ve lo lascio in descrizione. Goleman prosegue il racconto di quel pomeriggio dicendo che tutti quelli che salivano sull'autobus rimanevano colpiti da quel saluto. Qualcuno rispondeva a tono, altri rimanevano chiusi in loro stessi, nel loro disagio e nel loro nervosismo. Lentamente però in quell'autobus successe una trasformazione, quasi un incantesimo. L'autista continuò a parlare durante tutto il viaggio, commentando con entusiasmo lo scenario cittadino nel quale si stavano muovendo. In quei grandi magazzini si sarebbero potuti trovare dei saldi imperdibili. In quel museo era iniziata soltanto da qualche giorno una mostra che valeva assolutamente la pena visitare. In quel cinema dietro l'angolo c'era un film in prima visione che valeva veramente la pena vedere. L'autista continuò a parlare per tutto il viaggio di tutte le bellissime opportunità che la città poteva offrire in quell'agosto così afoso. Ma le persone, quando scendevano dall'autobus e nuovamente si sentivano salutare con uno squillante «Arrivederci, buona giornata», il loro atteggiamento era cambiato nel frattempo. Rispondevano anch'esse a quel saluto così entusiasta con un sorriso altrettanto sincero. Chissà se quel giorno ognuno dei passeggeri non sia diventato a sua volta portatore del virus del buon umore e della positività anche in altri ambienti, in famiglia oppure sul lavoro. Che cosa ci ricorda questo semplice racconto? Ci ricorda una cosa meravigliosa: che le emozioni sono contagiose. Tutte le emozioni sono contagiose, sia quelle positive sia quelle negative. Ogni volta che leggiamo e riascoltiamo i particolari di quel delitto e ne riparliamo con un'altra persona, ogni volta che ci lamentiamo di qualcosa che non va, quando critichiamo qualcuno, quando rigiriamo continuamente il coltello nella piaga, consapevolmente o meno, noi stiamo diffondendo intorno a noi insoddisfazione, paura, tristezza, nervosismo. Ma anche le emozioni positive sono contagiose. E allora, come quell'autista, ognuno di noi può decidere consapevolmente di diffondere, di contagiare intorno a sé le persone con emozioni positive, sorridendo e salutando con entusiasmo, raccontando qualcosa di bello che ci è accaduto, mettendo magari in risalto qualcosa di buono che abbiamo visto o parlando bene di qualcuno. Facendo questo, noi ci faremo portatori, contagiatori di qualcosa di positivo, di emozioni che andranno a migliorare, ad arricchire la vita degli altri intorno a noi. Goleman conclude l'introduzione del suo libro dicendo che quell'autista era una specie di pacificatore metropolitano con il magico potere di attenuare la cupa irritabilità che covava nei suoi passeggeri, ammorbidendo e aprendo un pochino il loro cuore. Prova allora a chiederti: che genere di pensieri diffondi intorno a te? Con quale genere di emozioni tendi a contagiare le persone con le quali entri in contatto? Sceglierai di diventare diffusore di emozioni positive anche tu come quell'autista? E diffondi anche questo video se ti è piaciuto, condividilo e iscriviti al canale.